Denaro sì, denaro no, con due di denari puoi guadagnar se vuoi ascoltar Meazza e Rosciani. Se allo spread tu dici no, più interessi ti darò. Fuffa fifi, fuffa fifi, oh che meraviglia! Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. L'ho fatto una volta, poi l'ho rifatto pure un'altra volta. Sì, il protagonista è il fisco. E i tuoi amici del fisco. Sì, beh, insomma, amici, diciamo che ci conosciamo, ecco. Non, magari non tutti gli italiani possono dire così, invece il fisco ed io ci conosciamo. Diciamo che vi danno sempre grande materia di cui scrivere. E sono soddisfazioni anche oggi sul Sole 24 Ore per le firme di Giuseppe Morina e Tonino Morina, una vicenda come d'abitudine surreale. Ma è capitato protagonista questo signore di Messina. Sì, il quale, allora, in realtà poi i suoi eredi, il quale ha ricevuto ben due atti di accertamento. Esatto. Gli atti di accertamento però in realtà non erano motivati, quindi sostanzialmente erano stati annullati. O meglio, sarebbero stati annullati, ma poiché l'Agenzia delle Entrate si è persa le carte, l'Agenzia delle Entrate è una sede di Messina, scrive allora, sulle 24 ore. È ricominciato da zero, no? È ricominciato da zero tutto quanto, e così adesso bisogna ricominciare da zero pure l'annullamento. Ma in realtà su questi due atti di accertamento, se non ho capito male dal pezzo, uno relativo al 2006, uno relativo al 2007, due atti contro i quali appunto questo signore si era opposto, in realtà aveva avuto poi decisioni diverse, no? Uno era stato accolto e l'altro respinto. Sì, e poi dopo però era stato annullato il tutto, ma poiché si è perduto tutto il fascicolo, a questo punto si riparte da zero, come nel gioco dell'oca. Ecco, nel frattempo il signor Salvatore non c'è più e adesso tutta questa gatta da pelare se la devono sorbire i suoi eredi. Comunque il tutto per un 212.000 euro, ecco, quindi infatti non sono neanche bruscolini. D'altra parte, insomma, una dimenticanza. Noi diciamo sempre che c'è qualcuno di noi italiani che si dimentica di segnalare delle cose al fisco, e a volte anche il fisco si dimentica di avere annullato una pretesa sbagliata. E allora una partenza un pochino leggera, non tanto per questa famiglia di Messina, per introdurvi ai temi che affronteremo quest'oggi. La borsa di nuovo brutta, soprattutto per quello che riguarda Milano, e ce ne occuperemo tra poco con il nostro esperto. E poi faremo un pochino anche di analisi ancora una volta su tutte le ricadute del contagio da coronavirus. Oggi ci occuperemo in particolar modo di collaboratori familiari e badanti, perché tra tutte le varie categorie che in questi giorni, in queste durissime settimane, sono state colpite da questa emergenza, ci sono anche appunto le condizioni di queste persone che si prendono cura dei nostri familiari in difficoltà. E se abito nella zona rossa e non posso andare ad assistere una persona che è in una zona gialla o in una zona senza contaminazione, che si fa? O al contrario, se la persona anziana da accudire abita nella zona rossa e il badante non la può raggiungere, che si fa? I datori di lavoro domestici sono datori di lavoro particolari e di conseguenza anche loro chiedono già a gran voce di avere qualche misura di assistenza fra quelle che sono state varate in questi giorni o che dovrebbero arrivare al più presto. Sì, perché nel frattempo prosegue naturalmente anche il lavorio normativo, per così dire. Allora, è di ieri il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con tutte le misure di cui avete già sentito, avete letto sui giornali, con le tre zone, quindi abbiamo oramai una zona rossa, una zona gialla, le indicazioni anche delle province, e poi stiamo aspettando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge di sostegno all'economia. Però in questo decreto legge, stando a quanto è stato annunciato appunto nella fine settimana appena trascorso, non ci sarebbero misure per il lavoro domestico. E come ricordava Deborah, il datore di lavoro domestico è un datore di lavoro un po' atipico, un po' sui generis, e quindi bisogna anche capire quali obblighi, quali diritti può avere il datore, quali obblighi, quali diritti può avere il collaboratore domestico. Bene, 800 24 00 24, se volete intervenire su questo argomento. Le disposizioni di sicurezza per contenere l'emergenza coronavirus rendono difficile la gestione di un rapporto di lavoro domestico. È successo anche a voi? Come state gestendo questa situazione? Il lavoratore o lavoratrice si trova in una delle zone rosse e non può uscirne per venire al lavoro, viceversa la persona che necessita di assistenza non può essere raggiunta perché residente nei comuni interessati. Raccontateci le vostre storie o al numero verde oppure al 349-238-6666. Riceviamo i vostri sms, come sempre anche i vostri whatsapp. E a questo punto però meteo borsa. Mamma mia. Meteo borsa. Buona giornata, almeno se la considera tale. Non so, ad Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investments. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, qua intanto abbiamo in corso di diffusione proprio in questi minuti le nuove stime dell'OCSE e le sue nuove previsioni economiche alla luce anche di quello che sta avvenendo in questi giorni. L'OCSE dice che l'economia mondiale è a rischio per il coronavirus, ha tagliato le stime di crescita globale per il 2020 di mezzo punto. In Italia la crescita, dice l'OCSE, sarà zero nel 2020. Il PIL della Cina, che è quello che monitoriamo con grande attenzione, per il 2020 è visto addirittura sotto il 5%, al 4,9%, rimbalzerà il più 6,4% nel 2021. La borsa oggi era partita con una voglia di riscatto, ma ha già cambiato idea, e soprattutto la batosta è di nuovo abbastanza importante per Piazza Affari. Partita con un rialzo dell'1,50%, adesso invece perde 2,5 punti. Non è solo colpa dello spread BTP e Bund, ma oggi i titoli bancari sono i grandi protagonisti in negativo di questa seduta. Aspesi, allora, stavamo proprio commentando con Mauro Meazza a microfoni spenti. Non è che, a parte, come dire, il tema del debito pubblico e le preoccupazioni anche per le risorse che il governo dovrà mettere in campo, magari indebitandosi ancora di più, che preoccupa appunto il mercato. Le banche prossimamente dovranno comunque farsi carico un po' di sostegno dell'economia. Noi parleremo magari nei prossimi giorni anche del tema della sospensione dei mutui per le persone in difficoltà e quant'altro. Perché questo rapido voltafaccia della mattinata appunto della borsa, che grava soprattutto sui titoli bancari, se lei può naturalmente esporsi in questa considerazione su questo settore particolare? Sì, innanzitutto ricordiamo sempre un vecchio adagio che si usa spesso a livello di mercati finanziari, che è quello di non cercare di afferrare il coltello dalla lama mentre sta cadendo nel vuoto. Quindi non cerchiamo di non farci prendere anche da questa diciamo brutta mania di attaccarci a fare ordini quando vediamo un minimo ritracciamento del mercato, nella speranza che poi si possa recuperare molto velocemente. Quello che il settore finanziario, che è poi il termometro del mercato italiano in questo momento, sta identificando è una situazione di altissima incertezza che impatta la crescita economica da due punti di vista. Uno sicuramente è quella legata ai consumi, che comunque dovute anche a queste grandissime restrizioni e precauzioni in essere, non potranno che avere un rallentamento nel corso dei prossimi mesi. E dall'altra parte anche una grande difficoltà da parte del tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto quello di piccole e medie dimensioni, che oggi si trova con comunque delle scorte ai minimi e ci potrebbero essere anche degli ulteriori rallentamenti qualora la catena del valore, quindi tutte le merci e servizi che vengono utilizzati nell'ambito produttivo, dovessero comunque avere dei periodi di blackout. Le banche sono essenzialmente la prima entità che si occupa di cercare di trasmettere quello che viene chiamato il meccanismo del credito, e quindi dare linfa vitale alle aziende. Il problema che oggi le banche stanno affrontando è quello che, anche qualora avessero la possibilità di offrire questo tipo di energia alle aziende, si trovano dall'altra parte delle controparti che stanno semplicemente cercando di preservare la propria attività produttiva senza ovviamente avere nessun stimolo a investire ulteriormente, perché la situazione è poco conosciuta. Quello che abbiamo visto per esempio nel 2008 con la grande crisi finanziaria dovuta ai mutui subprime comunque aveva una chiara identificazione di quello che fosse il problema. In questo momento, come hai citato anche tu, Deborah, precedentemente, le stime comunque per la crescita sono ancora abbastanza vaghe e soprattutto il meccanismo di espansione di questo virus non è ancora certo, non si sa se il virus potrà mutare durante i prossimi mesi e di conseguenza, tornando al discorso delle banche, sono il primo settore che è lo più legato all'attività produttiva e che sconta dei flussi di cassa per il futuro decisamente poco interessanti. Quindi è proprio l'incertezza che è il grande tema che scontano i mercati come sempre. Ma non dovrebbero essere le banche anche le prime destinatarie delle misure di sostegno all'economia, quelle che appunto aspettiamo anche di leggere comma per comma nel decreto legge deciso venerdì dal governo? Cioè mi immagino che in questo momento lei ricordava appunto la situazione delle piccole e medie imprese che ovviamente sono in difficoltà, piccole attività commerciali che sono in difficoltà, non hanno neanche, come dire, margine per resistere a lungo alla situazione, allora mi aspetto che le misure del governo vadano subito incontro per evitare una stretta del credito, in sostanza. Ma sì, mi sbaglio? Sì. No, me lo dica lei, Aspesi. No, deve essere così. Il problema è che però abbiamo dall'altra parte un'entità o un gruppo di imprese che in questo momento non ha nessuna tipologia di positività a livello di ordini. Parlavamo con una nostra controparte specializzata nell'ambito sportivo che è molto esposta alla Cina, per esempio, per quanto riguarda anche la catena del valore, ha avuto una riduzione di quasi l'85% della produzione nei primi 20 giorni di febbraio, quindi può capire quanto invece possa essere ancora più complicato per l'azienda industriale italiana che magari si occupa di componentistica o del settore indotto per l'automobili, che nonostante possa avere da una parte un istituto finanziario che offre pompa liquidità per poter comunque garantire il processo produttivo, dall'altra si trova una contrazione del settore automobilistico magari di 3 punti percentuali nei prossimi 3 mesi. Quindi stiamo dando sì delle spinte, chiamiamole monetarie, all'attività produttiva, ma dall'altra parte se non c'è uno sbocco positivo di quello che effettivamente viene messo in essere da parte delle aziende, si rischia che poi cada nel vuoto. Un altro paio di argomenti, Aspesi. Allora, intanto sicuramente dalla Cina stamattina sono arrivate notizie diverse rispetto a quelle che adesso leggiamo in Europa. Le possibilità che le banche centrali intervengono a sostenere queste aree ha fatto appunto da traino agli ordini d'acquisto. Il Giappone ha chiuso bene, il Nikkei più 1,12%, più 3 punti percentuali per i principali indici cinesi. Invece in Europa, appunto, come dicevamo, vediamo ancora incertezza, quindi un tema è sicuramente cosa si aspettano e cosa possono fare ancora le banche centrali per fronteggiare questa emergenza economico-finanziaria. Quella sanitaria aspetta ad altre autorità. Seconda cosa, abbiamo visto un grande movimento sulle commodities in questi giorni, sulle materie prime, e ci ha molto colpito l'andamento dell'oro che, contrariamente a quello che succede in momenti di difficoltà, rappresenta come sempre il bene rifugio. In realtà ha cominciato a scendere anche il metallo giallo e in tutto questo il petrolio, grande attenzione questa settimana alla riunione dell'OPEC, se si terrà, perché magari potranno farla, non so, su Skype i rappresentanti dei paesi del cartello dei maggiori appunto paesi produttori. Sì, allora partiamo intanto dal primo punto, cioè il fatto che comunque le banche centrali abbiano un'intenzione di proporre un'attività coordinata a livello di liquidità da immettere nel mercato. La situazione cinese è leggermente diversa da quella che per esempio viviamo noi in Europa, in quanto comunque le aspettative e le manovre poste in essere dalla banca centrale cinese nei mesi precedenti all'avvio del virus erano delle manovre leggermente restrittive, quindi questa volontà della banca centrale cinese di rimettere liquidità sul mercato ha anche un effetto positivo, perché comunque chiamiamolo ha un volano che riesce a trasmettere meglio la liquidità sul mercato. La situazione è leggermente differente per quanto riguarda l'Europa, dove comunque vediamo che siamo già in un ambiente di tassi di interesse sia nominali che reali negativi, e quindi ulteriori manovre monetarie hanno meno effetto rispetto a quello che potrebbero avere delle manovre fiscali. E di conseguenza non pensiamo che la politica monetaria sia l'unica risposta in questo momento che possa alleviare i problemi con il virus, quindi è molto più necessario pensare a una manovra espansiva fiscale eventualmente con maggiori deficit rispetto a quelli preventivati nelle manovre finanziarie per il 2020, e quindi cercare proprio di utilizzare la leva fiscale per aumentare il meccanismo di traino dell'economia. In merito invece alla seconda considerazione, sì, ci sono degli aspetti particolari da considerare. Abbiamo visto l'oro, asset class diciamo di riferimento per quanto riguarda la protezione durante le fasi di altissima volatilità, ha visto la settimana scorsa un decremento di quasi 7 punti percentuali. Questo è dovuto a banche di investimento o investitori che devono rientrare di quelli che vengono chiamati margini di garanzia per quanto riguarda i prodotti derivati. Sostanzialmente i margin call, richiamando un noto film recente. Sì, anche. Sì. Sostanzialmente devono aumentare i margini a garanzia di un'operazione che stanno effettuando in derivati, dove sono andati a diciamo ricercare la liquidità sull'unico investimento che in quel momento aveva un segno positivo. E in effetti le vendite sull'oro sono state più utilizzato in un ambito finanziario puro o speculativo per andare a prendere da qualcosa che avesse un segno più davanti, piuttosto che da una fiducia che tutte le cose possano migliorare immediatamente. Per quanto riguarda invece l'OPEC, anche qua stiamo parlando sì di un organismo che potrebbe andare a tagliare la produzione per sostenere il prezzo del petrolio, ma se non c'è un consumo di petrolio dovuto a un rallentamento dell'attività produttiva, capisce che magari nel brevissimo periodo si può ottenere l'effetto di sostenere i corsi del petrolio, ma nel lungo periodo bisogna vedere un'economia crescente per poter comunque poi supportare determinati valori del petrolio. Da quanto lei ci descrive, Aspesi, mi sembra di capire che è difficile anche individuare delle voci, degli asset, dei settori che potrebbero in qualche modo sfuggire al morso del coronavirus alla fine, perché cosa che sta diventando globale. Diventa globale, le uniche regole che fino a oggi sono state rispettate sono state quelle relative alle monete rifugio, quindi abbiamo visto un recupero dello yen e del franco svizzero, ed abbiamo visto i T-bond americani, quindi il debito pubblico americano, toccare dei limiti minimi in termini di rendimento, e intorno all'1,09%, che sono dei limiti mai visti nel corso della storia. Quindi le uniche tre regole che sono state confermate sono state quelle delle valute rifugio e di se non so dove investire, le obbligazioni americane sono quelle che effettivamente mi danno più protezione. Per tutto il resto, in questo momento stiamo vedendo grandissima volatilità, grandissima incertezza e pochi segnali di fiducia da parte degli investitori istituzionali nella ripresa dei mercati finanziari. Grazie ad Alessandro Aspesi per essere stato con noi. Buona giornata, a presto. Grazie. Ti leggo un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: io sono un imprenditore del turismo, non mi interessa che le banche mi diano credito se ho avuto le prenotazioni tutte cancellate, mi interessa che sospendano leasing, mutui e finanziamenti. Forse nel calo di questa mattina c'è anche una quota di questi rischi che si assumono le banche di dover sospendere in questo momento appunto i finanziamenti per famiglie e imprese. Abbiamo comunque un pochino di giornale radio del risparmio. Un pochino, sì, dai. Un pochino, faccio fatica a trovare qualche cosa che non sia legato al coronavirus, però lo cercherò un po'. Impegniamoci, dai. Rigo rigo. Una sigletta, per favore. Meazza corro sciani la mattina, in sordi sola meglio medicina. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro. Allora, abbiamo sicuramente tutte le misure che riguardano la limitazione del contagio, e queste sono delle misure che nero su bianco abbiamo visto sulla Gazzetta Ufficiale. Ci mancano però tutte le misure economiche. Secondo te il ministro Gualtieri ha intenzione di metterle nero su bianco? Abbiamo qualcosa di più che sia un comunicato stampa del governo? Ma ci mancherebbe. Allora, facciamo un po' d'ordine. C'è un terzo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ne abbiamo avuto uno domenica scorsa, non nel senso di ieri, proprio quella precedente, uno mercoledì, adesso c'è un terzo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uscito ieri 1 marzo, e riepiloga un po' tutte le misure, sia con i comuni in cosiddetta zona rossa, le regioni in zona gialla, le province di Pesaro e Urbino, e inoltre dispone tutta una serie di misure, tra cui ad esempio conferma quel ricorso allo smart working agevolato per così diminuire anche le possibilità di contatto e di contagio nei luoghi di lavoro. Io non posso andare in palestra ancora per tutta questa settimana e quindi mi innervosisco. No, cosa faccio? Non Lombardia. Posso andare a correre, che piove, cosa faccio? Ginnastica qui in ufficio? Oltretutto andrei magari anche smart working oggi pomeriggio, un attimo, un paio d'ore. Un allora, coacervo di problemi. Fammi studiare bene il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi ti rispondo. Ti dico che venerdì è stato deciso, salvo intese, il varo di un decreto legge. C'è già un decreto legge operativo sull'emergenza coronavirus, è il numero 6. Ne è stato deciso un altro, lo attendiamo in Gazzetta, diciamo già nella giornata di oggi. Tra l'altro lì dovrebbero esserci proprio le misure di sostegno per i mutui per il settore turistico. Vediamo, bisognerà come sempre leggerli molto attentamente per capire come funzionano. Peraltro, rispondendo all'ascoltatore che ci raccontava essere un operatore del settore turistico, lui dice: io avrei bisogno di una sospensione di mutui, leasing e finanziamenti per il settore. Si prevede, stando appunto alle anticipazioni che sono contenute solo in un comunicato stampa del governo, si prevede per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Questo è quanto. Se poi interagendo con il vostro intermediario finanziario magari vi viene incontro anche in una sospensione dei finanziamenti in corso, questo lo vedremo. Per quello che riguarda appunto le misure di questo tipo, credo che saranno previste anche sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione da lavoro e la riduzione dell'orario di lavoro su tutte le imprese. Appunto, vedremo prossimamente se sì, c'è anche l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Qualcosa c'è in questo senso per le imprese oltre a tutto il resto. Dobbiamo considerarlo tra l'altro una sorta di primo intervento, perché come sappiamo poi c'è un confronto in corso con la Commissione europea per poter intervenire ancora più massicciamente, e a rischio ovviamente il rispetto del deficit, dei limiti del deficit, ma è chiaro che la situazione è assolutamente imprevedibile. Continuano intanto anche, come vedi, le iniziative delle compagnie aeree europee ed internazionali che continuano a ridurre i voli da e per l'Italia. L'ultima in ordine di tempo di cui abbiamo saputo è Lufthansa, che ha fatto sapere appunto di ridurre ulteriormente i transiti da e per il nostro paese. E negli aeroporti lombardi l'effetto del virus è un calo del 30% dei passeggeri. Malpensa di Linate, nei primi tre giorni della settimana scorsa il calo è stato del 32,5%, a Bergamo Orio al Serio del 30%, quindi il calo è andato via via crescendo, perché è cominciato con un 21,6% lunedì e si è arrivati al 41% di calo nella giornata di mercoledì. Ti vorrei segnalare una cosa che non è coronavirus, così. Meno male, guarda, sì, veramente ce ne sarebbero anche un paio. Ti dirò che le possiamo dare tutte e due, tanto per fare un po' di stacco tra un tema e un altro. Allora, sì. Innanzitutto ti vorrei segnalare che la Banca d'Italia ha cambiato la sua organizzazione, sì, alzando il livello di attenzione per la tutela della clientela bancaria e l'educazione finanziaria. Ci fa piacere annunciarlo, perché tutto questo, cioè tutela della clientela bancaria, educazione finanziaria, diventa un dipartimento della Banca d'Italia affidato alla guida di Magda Bianco, che è una amica abituale di Due di Denari quando parliamo di educazione finanziaria, specialmente nel mese di ottobre, il mese tradizionalmente riservato all'educazione finanziaria e al risparmio. Peraltro ricordiamo che la Banca d'Italia è una delle varie autorità ed istituzioni che siedono appunto nel tavolo del Ministero dell'Economia e del Comitato per l'Educazione Finanziaria, che ci aiuta in particolar modo nel mese di ottobre appunto a presidiare un po' tutte le iniziative sul territorio in occasione del mese dell'educazione finanziaria, che Radio 24 ha seguito sempre con grande attenzione. Un'altra notizia che volevi raccontare era la questione molto telegrafica, ma la dico: il tempo del bambino in caso di separazione non si divide al 50%, cioè non ci deve essere una divisione in modo simmetrico, perché la cosa che deve prevalere come sempre è il diritto del minore a una crescita serena. L'interesse del minore, sì. Lo ha precisato la Cassazione, ordinanza 3652 del 13 febbraio, e l'ho letto sul Sole 24 Ore di oggi, naturalmente nelle pagine di Norme e Tributi, che corona o non corona vanno sempre lette religiosamente. E a questo punto, Deborah, per favore, le borse. Vai Meazza, bravo bravo. due di denari. Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Ma correre sotto la pioggia è catartico, ti perdi il bello della vita, su dai, forza. Adesso come va, come va, come va. Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno chiamando a due di denari all'800240024, non ancora sul tema che abbiamo scelto di approfondire questa mattina, ma su tutte le altre emergenze territoriali legate alle misure prese dal governo per limitare il contagio. Per esempio Gianni da Bologna ci chiedeva se a Bologna e provincia si possono fare riunioni di condominio. Mi pare che non ci siano in questa zona limitazioni in questo senso. Poi certo, se uno le vuole rimandare, se non è qualcosa di urgenza, sicuramente riduce anche i rischi, no? Però l'Emilia Romagna sta comunque nelle regioni che sono citate come regioni cosiddette zona gialla, quindi Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. E quindi io presumerei, sì, è vero, hai ragione, che in questo caso che è meglio evitare l'unione di condominio, cioè gli assembramenti. Poi bisogna capire ovviamente quant'è la numerosità di questa riunione, cioè se si tratta di un condominio di 10 persone, allora devo dire siamo poco più che a un ritrovo e forse con se l'abituale. Se vi riunite, come dicevamo anche l'altra volta, in appartamento, perché siete in 5 condomini, quindi è chiaro che non è un assembramento imponente. Adesso abbiamo imparato anche questa regola della distanza di un metro, ecco, diciamo che come, così come è consentito per i bar tenere aperto purché il servizio sia solo al tavolo e si tenga la distanza di un metro tra un cliente e l'altro, ecco, anche forse per la riunione di condominio possiamo adottare lo stesso criterio. Domani nella pagina di condominio, che tutti i martedì esce con il Sole 24 Ore, secondo me ne sapremo di più, cara Deborah. Molto bene. Allora, Assin.Colf è l'associazione dei datori di lavoro domestici e nei giorni scorsi ha potuto partecipare al tavolo interministeriale che è stato convocato dal ministro del lavoro e del welfare, appunto Nunzia Catalfo, e dal ministro per l'innovazione Pisano, convocato proprio per la gestione delle ricadute del coronavirus. Buongiorno e benvenuto ad Andrea Zini, vicepresidente di Assin.Colf, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa, quale tipo di considerazione avete portato a questo tavolo? Perché anche voi siete stati, come dire, direttamente come datori di lavoro domestici interessati a questa emergenza, da un lato e dall'altro. Da un lato come datori di lavoro, se le famiglie hanno una situazione in casa che necessita appunto del lavoro di una badante, magari risiedendo in queste zone problematiche non si può fruire di questa assistenza in questi giorni, al contrario se siamo appunto un collaboratore familiare che abita in queste zone non può raggiungere magari la persona da seguire che abita in zone non condizionate, e quindi insomma a vario livello anche per voi è scattata l'emergenza. Zini. Sì, ci sono state molte segnalazioni, soprattutto negli uffici lombardi, quello di Milano in particolare, con delle preoccupazioni che vanno dalla paura to cure, queste anche in altre parti d'Italia, alla richiesta di avere oggettive indicazioni sul come comportarsi col proprio lavoratore. Allora, intanto una prima questione. Grazie al ministro Catalfo che ci ha convocato, perché il settore occupa 2 milioni di lavoratori, solamente 865.000 in chiaro, tutti gli altri in nero, ma in questo momento non è che le norme che riguardano il lavoro debbano essere dettate solamente per i lavoratori in regola, perché sarebbe assurdo dire quelli in nero possono continuare a lavorare anche se sono nella zona rossa. Seconda considerazione è che siamo, come dire, in una situazione ambivalente, mi spiego. Da un lato vogliamo sapere se ci potrà essere anche per le famiglie la cassa integrazione in deroga, posto che se ho letto bene il decreto, credo di averlo letto bene, il lavoratore è espressamente non esentato, gli è vietata la prestazione, ma essendo un divieto di ordine pubblico è come se fosse malattia e quindi in teoria deve essere coperto. Famiglia, in teoria la famiglia dovrebbe continuare a retribuirlo se non ci sono altri strumenti, per cui abbiamo chiesto l'intervento della cassa integrazione in deroga Io credo che verrà fuori oggi o domani, vedremo se la ministra ha potuto inserirci, perché sicuramente non sarà cosa facile, ma ribadisco anche da questa emittente che come un professionista, un dipendente, oppure un artigiano, un commerciante o uno o due dipendenti, anche una famiglia con un dipendente, se non può ricevere la prestazione non deve ricorrere al licenziamento, che sarebbe solamente uno scaricare verso il basso, verso la parte più debole, il sacrificio da farsi in questi giorni. Tra l'altro, prego Zini, concluda. Perché no, volevo questa è la prima parte dell'ambivalenza. La seconda parte dell'ambivalenza, noi abbiamo detto: guardate che però ci sono delle situazioni che sono paragonabili a quelle di ospedali di lungo degenza o situazioni di case protette, RSA, perché ci sono delle assistenze necessarie per persone non autosufficienti che hanno nell'unica persona che può assistere, cioè la badante o la babysitter in alcuni casi, la persona sulla quale può poter fare affidamento. Teniamo presente che le scuole sono chiuse, quindi le famiglie che per qualsiasi motivo anche nella zona rossa devono continuare a lavorare, perché magari hanno un forno, perché è un ufficio, un pubblico servizio che quindi non deve avere, se non hanno la babysitter oppure se non hanno la badante, si crea una impossibilità di gestire l'anziano o il piccolo, il giovane, e da questo punto di vista abbiamo detto: ricomprendete in questo caso, valutiamo quali sono i parametri, ricomprendete anche questi casi nelle esenzioni dall'astenersi dal lavoro. E quindi se si è tutti e due, ambedue nella zona rossa, poter continuare la prestazione, come sicuramente avverrà per esempio in caso di convivenza, perché è evidente che se anche la lavoratrice deve stare nella propria abitazione, la sua abitazione è quella della famiglia, quindi in questo caso non c'è logica per sospendere la prestazione. Ma se una delle due parti del rapporto sta al di fuori della zona rossa e l'altra al di dentro, è evidente che occorre un'autorizzazione, un lascia passare per poter rendere la propria prestazione. Quindi siamo tra l'incudine e il martello, come si suol dire. Questo l'abbiamo chiesto al Ministero e vedremo che cosa potranno darci. Zini, i doveri dei datori di lavoro nei confronti delle colf, delle badanti, delle babysitter, nelle aziende abbiamo visto sono aumentati i presidi, ci sono aziende dove viene presa la temperatura all'ingresso per i dipendenti e i visitatori, distributori di disinfettante e così via. Il datore di lavoro domestico anche lui deve sottostare a questo tipo di obblighi? Allora, da un punto di vista è una buona domanda, sa, perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato varato ieri, che ho qua sotto gli occhi, dice letteralmente la sospensione delle attività lavorative per le imprese ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza. Per cui in questa previsione non saremmo coinvolti, perché dice modalità domiciliare per le imprese. Ah, no, certo. Forse per i domiciliari noi le facciamo tutti sarebbero compresi. Sì. Esatto, l'assurdo sarebbe questo, no? Però per le imprese, e quindi in teoria la famiglia non è un'impresa, ma il buon senso ci dice che deve essere inteso lato senso. E quindi anche le attività di prevenzione, di controllo, che sono più per la zona gialla, perché in quella rossa proprio c'è la sospensione dell'attività, nella zona gialla, quindi Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Pesaro Urbino, direi, il tema si pone. No, non credo che ci sia una necessità di una verifica, come dire, di questo tipo, perché è normale il dover essere in uno stato di buona salute per poter anche in questo caso presentarsi al lavoro. Voglio dire, siamo nelle stesse condizioni di un piccolo artigiano, di un professionista o di un commerciante che ha uno o due dipendenti. Non è certamente pensabile che questo tipo di misure, che fra l'altro hanno un senso se c'è un grosso assembramento di lavoratori. Certo. Sì, mentre in questo caso non c'è il problema di essere in troppi. La devo interrompere, Zini, per qualche istante perché dobbiamo ascoltare le condizioni del traffico. A tra poco. Ogni venerdì a Due di Denari torna al momento poetico. Partecipa anche tu sfidando il sommo poeta titolare Mauro Meazza a comporre un sonetto su un tema a tua scelta. Ma ricorda, l'argomento dovrà essere tratto dalle nostre trasmissioni. Investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. Se sei pronto per questo duello a colpi di poesia, non ti resta che scriverci a duedidenari@radio24.it. La finanza è poesia. Due di Denari. La media delle persone in una riunione di condominio sono 4-5, non di più. Bisogna tornare alla vita di prima, non si può stare lì a ascoltare tutto il contrario di tutto nell'arco di poche ore, basta, fuori, non, spegnete TV, spegnete radio, andate a Laura che c'è bisogno di lavorare, non di ascoltare baggianate. È vero, qualcuno è un po' esausto di questa pioggia di notizie che ha oggettivamente ragione l'ascoltatore. Diciamo al momento che se fosse per noi, ma penso anche per Andrea Zini, vicepresidente di Assinatgolf, si occuperebbe volentieri di molti altri aspetti, che so, del rinnovo del contratto piuttosto che del coronavirus. Ci lavoriamo anche a quello comunque, è un'attività che non abbiamo sospeso. C'è il tema dei contributi, Mauro, che questa categoria versa ogni 3 mesi, no? Per i lavoratori del settore domestico, Zini. C'è allo studio del Ministero dell'Economia un provvedimento che prevederebbe lo slittamento almeno di questi proprio per fronteggiare questa fase di emergenza? Ne avete parlato con la Catalfo? Sì, assolutamente. Era uno dei temi che ci aveva anticipato, a prescindere dal fatto che credo che lo slittamento del pagamento dei contributi per le imprese sia un palliativo, veramente un pannicello caldo, perché di fatto sposti in avanti il problema, ma se non c'è la produzione non c'è ovviamente capacità di creare il fondo per poterli pagare né oggi né più avanti. Per noi è leggermente diverso, perché siamo stranamente non siamo imprese come dicevamo prima, ma non abbiamo nemmeno scopo di lucro, cioè lavoratore viene pagato addirittura con uno stipendio già tassato, con un reddito già tassato, e quindi addirittura mi vorrebbe da dire che c'è anche una doppia imposizione, per questo chiediamo la deducibilità. Sicuramente però sì, anche per le famiglie, che quindi per loro ha più senso, essendoci la sospensione del pagamento di contributi, bollette e ogni altro tipo di debito nei confronti dell'amministrazione, della pubblica amministrazione, credo che tutto tondo ci possano rientrare. Gradiremmo una specifica in merito e quindi consigliamo di attendere le nostre comunicazioni a Assinatgolf, manderà proprio a tutti gli associati, farà probabilmente anche dei comunicati pubblici quale sarà il comportamento. Abbiamo una di non avere nell'immediato una necessità di sapere come regolarci, perché il versamento contributivo è trimestrale e quindi il prossimo versamento sarà quello del 10 aprile. Al momento sembrerebbe ricompreso nella proroga, però attendiamo di vedere nei dettagli le circolari applicative del decreto del ministro Gualtieri. Sì, vedi, Deborah, che non sono solo io ad attendere ad avere questa depravazione con una certa ansia esattamente cosa sta scritto in Gazzetta Ufficiale. Zini, lei l'ha evocato prima, non vogliamo consigliarlo, ma Ricordiamo le misure previste nel caso uno invece decida di sospendere il rapporto, il licenziamento del collaboratore familiare, perché anche banalmente, insomma, si trova in una situazione di difficoltà economica e quindi preferisce sospendere, quindi ricorrere al licenziamento del collaboratore, perché non ci sono, credo, mezze misure, cioè non c'è una sorta di cassa integrazione in questo settore. Noi la spieghiamo e la stiamo attendendo, però oggettivamente ad oggi non c'è. L'ammortizzatore sociale. Credo che fra l'altro per le zone rosse le unità interessate di lavoratori non sarebbero tantissime, quindi non sarebbe nemmeno uno sforare le spese, i tetti di spesa preventivati. Il tema credo che sarebbe veramente grandissimo, e l'abbiamo evidenziato alla ministra Gattalfo, dal punto di vista amministrativo, perché non siamo mai stati interessati da misure di questo tipo, e quindi sarebbe da costruire anche la struttura procedurale per poterle gestire. Ma questo è un problema secondario. Il problema primario è quello: conserviamo o non conserviamo i rapporti di lavoro? Allora, facendo il cinico, direi la prima cosa è, siccome in queste paranoie ci sono anche quelle dei lavoratori, per cui magari la babysitter non vuole andare a prestare la propria attività per paura che se un domani infetta il bambino gli venga richiesto un risarcimento danni. Certo, perché sì, da un certo punto di vista c'è anche una certa responsabilità che purtroppo è alterata dalle fobie collettive, diciamo. Però se non c'è motivo di sospendere il rapporto di lavoro, si verifica un'assenza dal posto di lavoro ingiustificata, e quindi il licenziamento è assolutamente giustificato a sua volta. Giustificato in tronco. In tutti gli altri casi non abbiamo, devo dire onestamente, dei grossi problemi come settore, perché credo che sia l'unico in cui possiamo licenziare ancora ad nutum, cioè senza motivare il licenziamento, ovviamente con il pagamento del preavviso, e quindi questo sarebbe un aggravio. Soprattutto dovremmo poi comunque sostituire il lavoratore. Allora io graderei l'intervento in questo modo: se ci sono delle ferie arretrate, come in tutti i casi di cassa integrazione anche per le imprese, vanno prima smaltiti i periodi di ferie. Questo è un preciso dovere delle parti, per non teniamo presente che siamo inizio anno, quindi se ci sono, probabilmente ci sono a fine anno 2019 dei residui, quelli vanno utilizzati. Se questi non bastassero, ovviamente si pone la decisione da assumere. In teoria, per concordemente sospendere il rapporto di lavoro ci vorrebbe un accordo sindacale. Io credo che, vista la capillarità e il rapporto di uno a uno, anzi molto spesso il datore di lavoro... Dobbiamo chiudere, Zini, 10 secondi. Vado velocissimamente. Se c'è una firma del dipendente in cui accetta una sospensione non retribuita, bene. Se no, il licenziamento ci sta, come dicevo, previo pagamento del preavviso. Bene, grazie ad Andrea Zini a Sindatcolf per essere stato con noi. Torniamo domani. Speriamo con tante belle notizie anche in Gazzetta Ufficiale. E sfebbrati possibilmente. Beh, certo. Buona giornata.